Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. A lanciare l'allarme sulla connessione tra microcriminalità e povertà è il garante per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spatafora, in visita a Napoli per denunciare le condizioni in cui vivono bambini e adolescenti tra povertà, privazioni e disagi. Sono ospitati 8 minori. Attualmente il più piccolo ha 9 anni, la più grande ne ha quasi 18. Sono minori che sono stati tolti alle famiglie per vari motivi e sono stati affidati alla nostra struttura. Qui vivono come una famiglia, almeno cerchiamo di essere una famiglia il più possibile. So che con questo incipit aumenterò il tasso di ostilità nei miei confronti, ma non me ne può importare di meno. La notizia la leggo su Libero, ve la leggo con il beneficio della verifica, però è uscita su un giornale di oggi. In un sestriere veneziano, in un parco, al parco di Villa Groggia, c'è una ludoteca con un parco intorno. La sintesi è questa: per proteste di signori e signori che andano lì con i loro cani, i bambini non potranno più giocare nel parco ma dovranno stare chiusi nella ludoteca, perché è accaduto durante una festicciola di compleanno, una bambina avesse fatto esplodere un palloncino giocandoci, come è normale che accada, si sia spaventato il barboncino di una signora che ha protestato, e quindi è stato dato l'ordine che i bambini non potranno più giocare nel parco, non potranno più fare le feste nel parco. Consideriamo che è una delle poche zone verdi dentro Venezia, immaginate. Perché? Perché è stata scelta come priorità la serenità dei cagnolini rispetto al diritto dei bambini di far casino e giocare, di strillare e di urlare. Sacrosanta la dignità del cane, ma io vorrei porre questa mattina un problema rispetto alla nostra percezione generale dell'infanzia. Il bambino naturalmente al centro di tutte le attenzioni, il bambino va difeso nella sua immagine quando appare in pubblicità, bisogna fare tanti bambini, guai chi pensa che i bambini non debbano nascere dentro una famiglia regolare, santificata e con tutti i crismi. Però i bambini in Italia in realtà sono molto poco considerati. Avete sentito dall'incipit la protesta, la denuncia che è stata fatta da parte del garante per l'infanzia e l'adolescenza, figura di cui sfido molti degli ascoltatori di sapere che esistesse l'esistenza, che ha fatto recentemente un rapporto a Camera Senato, dice che in Italia in realtà i bambini sono proprio fuori dall'attenzione, dalla centralità, dall'organizzazione dello Stato e della cosa pubblica. Ma io, continuando proprio sulla provocazione che ho iniziato, una delle cose che mi dà più soddisfazione, avendo già ampiamente dato sia in bambini sia in cani, è il fatto che esista un'anagrafe canina, che esistano persone che fanno lecite e sacrosante battaglie per i gattini randagi nelle città. Ma lo sapete che è stato un grande problema in Italia avere un'anagrafe dei bambini che comunque attendevano una collocazione, che stanno parcheggiati, che, dei quali non si sa nessun tipo di stima, non sapeva perlomeno nessun tipo di stima esatta, bambini in attesa di qualcuno che se li prenda, che possa loro voler bene. Marco Griffini, buongiorno. Marco Griffini, ecco. Buongiorno. L'abbiamo recuperato. Presidente l'AIBI, Associazione Amici dei Bambini. Quanto è stato difficile avere un database, che mi sembra lo strumento fondamentale, essenziale, per capire in Italia quanti bambini abbandonati, in attesa di essere adottati, affidati o portatori comunque di un bisogno particolare ci fossero? È stato tanto difficile, tante cose che non l'abbiamo ancora. Ah, come? Io sapevo la notizia che comunque qualcuno aveva detto che era stato fatto. Qui è un mistero che deve essere chiarito, e sarebbe interessante che magari voi riusciste a contattare il Ministero per capire che punto siamo. Perché, per farla brevemente, c'è stato 10 anni fa questa legge del 2000 voluta proprio da noi, associazioni di genitori adottivi, da Don Benzi, no? Da tutti queste situazioni che avevano a cuore l'interesse dei minori fuori famiglia, e questa legge del 2000, la 149, aveva previsto che entro pochi mesi il Ministero di Giustizia avrebbe dovuto realizzare questa banca dati dei minori fuori famiglia. Sono passati 10 anni, abbiamo dovuto fare una causa al TAR del Lazio, che è stata vinta, e il TAR del Lazio ha imposto al Ministero di Giustizia entro il 31 dicembre del 2012 di creare questa benedetta banca dati. Sono passati 6 mesi? Cosa è successo? Il Ministero ha emesso il regolamento, e dopodiché sta venendo fuori delle cose interessanti, perché a detta della dottoressa Chennici, che è la responsabile del Dipartimento di Giustizia Minorile, da cui dipendono i 29 tribunali dei minorenni italiani, ha detto, questa dichiarazione che ha fatto a gennaio di quest'anno, ma è l'ultima in nostro possesso, che solamente 8 tribunali dei 29 sarebbero in possesso di una banca dati regionale. Per cui anche noi ci siamo molto meravigliati, dico, ma come solamente 8 tribunali? Cioè, vuol dire che gli altri tribunali non possiedono una banca dati regionale? Perché sai, la soluzione è molto semplice, no? Perché se ogni tribunale avesse la propria banca dati, sarebbe talmente facile, no? E agevole e semplice collegare 29 computer. Farle comunicare fra loro. Certamente, sono cose che fanno tutti, no? No, sembra sembra paradossale che se adesso dicessi difendiamo i bambini dai mostri che stanno in internet, figuriamoci, la gente scenderebbe in piazza. Ma quando internet diventa uno strumento, la rete in generale, lo strumento informatico per capire quanti bambini parcheggiati esistano in Italia, bisognosi o desiderosi o meritevoli comunque che qualcuno si occupi di loro, non lo sappiamo. È un dato interessante, perché adesso ci spieghiamo per quale motivo, per esempio, le adozioni nazionali da anni e anni sono solamente 1000, non più di 1900 un anno, 1000 l'altro anno, 1100 l'anno. Cioè vuol dire che praticamente in tribunale, io vorrei essere smentito, ma io sono 3 mesi che sto dicendo questa cosa e nessun tribunale mi smentisce. Cioè, secondo me veramente stanno lavorando con documenti cartacei. Cioè, noi abbiamo delle case famiglie, ma io sono preoccupatissimo, perché non sono sicuro che il tribunale di competenza sa quanti bambini adottabili sono nelle mie case famiglie. Ma si fermi un attimo, allora mi chiedo come fanno a fare le adozioni. Si fermi un attimo, Griffini, perché lei dice una cosa molto interessante, vediamo se la riassumo bene. In realtà, nonostante le associazioni che si occupano di questo tipo di problema abbiano più volte sollecitato, è stato necessario ricorrere al TAR per imporre al Ministero, dire, dia alle varie, diciamo, procure che si occupano dei minori, i tribunali minorenni che si occupano dei minori, di far comunicare i loro dati, di modo che abbiamo un'idea generale, un database, cioè un elenco. Se venisse fuori che ne so, un bambino dichiarato adottabile a Palermo e nel tribunale di Palermo non c'è la copia disponibile, con questa banca dati si va a prendere, che non so, una copia di Milano. Sì, come si va in Africa, si va in Asia e no, tutto, perché, sarebbe più facile. Succede che noi adesso mandiamo magari delle copie disponibili ad adottare i bambini di 10 anni in Brasile, quando magari sappiamo e siamo sicuri che ci sono dei bambini adottabili in Italia. Beh, questa che sta dando è una notizia che a me sconcerta abbastanza, essendovi occupato più volte anni, di questo problema. Sono anni che lo diciamo, tant'è vero che gli ultimi dati pubblicati dal Ministero di Giustizia ci confermano che mediamente ogni anno dai 200 ai 300 ai 400 bambini non vengono dichiarati adottabili, non vengono adottati. Si fermi un attimo, ogni anno 300 bambini dichiarati adottabili in Italia non sono adottati perché manca una banca dati. Allora, si fermi, Griffini, la sintesi è questa. Voi avete un dato, ci sono almeno 300 bambini in Italia. Non è il mio dato, è il dato pubblicato dal Ministero della Giustizia. Che sarebbero adottabili, quindi le tante coppie che si muovono con ansia, con peripezie in giro per il mondo, potrebbero almeno essere informati, poi fanno la loro scelta, che 300 bambini sono adottabili in Italia, sono lì che aspettano, però sono dei fantasmi, non esistono, perché oggi se non si entra in un database, se non è uno strumento interconnesso, i cui dati sono richiamabili per età, per fascia di bisogno, per regione, per genere, via dicendo, praticamente come se non si esistesse. Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno a te Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Valentina è la mia collega di Radio 24, conduce Indovina chi viene a cena, il libro di cui abbiamo più volte parlato, L'industria della carità, da storie e testimonianze inedite, Il volto nascosto della beneficenza, edizioni Chiare Lettere. Valentina si occupa molto spesso di problemi relativi appunto all'infanzia, relativi al sociale, con lei abbiamo parlato anche di adozioni recentemente. Valentina, su questo ultimo dato, primo sulla presenza che improvvisamente noi di cui diamo notizia, di cui mi sto rendendo conto anche dai messaggi che mi arrivano, che poco si sapeva e si conosceva, di un garante per l'infanzia e l'adolescenza. Di garante la privacy sappiamo tutto, siamo tutti preoccupatissimi dell'odio che serpeggia per la rete, che potrebbe farci malissimo, ma esista un signore che fa una relazione Camere, a governo e Camere, dice guardate che in Italia dei bambini non gliene importa un fico secco a nessuno, mi sembra un dato importante. Su questa ultima carenza, che non esiste l'anagrafe dei bambini quando c'è l'anagrafe canina, l'anagrafe gattina, l'anagrafe dei poveri topolini liberati dagli stabulari dei cattivi scienziati, ti sembra una notizia accettabile? Guarda, per me è una notizia da prima pagina, ma è talmente, c'è un'indifferenza talmente forte su questo che sui giornali la relazione del garante di ieri non troverete praticamente nulla. Quella che dice lo scandalo di cui si fa portavoce Griffini, che è da anni con AIBI lotta per avere questa banca dati, è una cosa che appunto va avanti da 12 anni, noi Radio 24 nei radiogiornali, nei reportage io me ne ero occupata, e la prima volta, come dicevi tu, in cui me ne sono occupata ho cercato la banca dati, no? Ho guardato tutti i siti e poi ho trovato appunto l'anagrafe dei cani abbandonati, dei bambini abbandonati non c'era traccia, non interessano a nessuno, probabilmente perché non hanno genitori che votano, mi viene da pensare, invece degli animali ci occupiamo moltissimo. È una cosa scandalosa questa della banca dati, come diceva Griffini, esiste per 8 tribunali, esistono dei dati, per gli altri no. Tra l'altro 3 anni fa sono stati stanziati 800.000 euro per realizzare questa banca dati. A cosa siano serviti nessuno più o meno, Valentina, lo sa. Mi scrive un ascoltatore, sì. Sono Gigi, vuol dire che se questi bambini scompaiono nessuno ne sa nulla? La conseguenza più grave, perché uno verrebbe da pensare in ascolto, immagino un ascoltatore che dica vabbè, cosa interessa avere una banca dati, no? Beh, interessa perché sapere quanti sono, dove sono, se sono adottabili o meno, ci consente poi di capire appunto se spariscono o questa è ovviamente l'ipotesi più tragica, più pesante, alla quale non vogliamo neanche immaginare, però Gigi non ha tutti i torti. L'ipotesi più leggera, più così confortante dal nostro punto di vista, però è grave comunque, è il fatto delle adozioni nazionali, le lungaggini che questo comporta. Come diceva Griffini, non si mettono in connessione, scusate la brutta espressione, ma domanda e offerta, no? Un genitore, una coppia di genitori ad Aosta e una bambina in Sicilia che nasce in quel momento, viene dichiarata adottabile e i due non si incontrano. È accaduto, Gianluca, perché nel 2010 io avevo scritto un libro, si fa presto a dire madre, per Melampo, in cui raccontavo la storia di Brunella, una signora di una casa famiglia che ha ricevuto da il tribunale, ha avuto in affido una bambina appena nata, una di quelle bambine belle, sane, che immagini vengano adottate all'istante, no? Dichiarata adottabile subito. Questa bambina, Beatrice, è stata parcheggiata nella sua casa famiglia 2 anni e la signora è andata avanti 2 anni dei servizi sociali. Ma è possibile che non ci siano dei genitori in Italia? Come diceva Griffini, è pieno di genitori che cercano di adottare bambini italiani, però l'adozione nazionale, qui si apre un altro grande capitolo di cui in parte abbiamo già parlato, come tu ricordavi, quello delle adozioni. L'adozione nazionale non costa nulla ed ha dei tempi lunghissimi. L'adozione internazionale costa moltissimo, 20.000 euro, 30.000 euro per adottare un bambino. E quindi mi sorge un dubbio, ma così io penso sempre male e vengo sempre accusata di essere cattiva, che in qualche maniera perché non esiste questa banca dati da 12 anni? Ci vuole un foglio Excel per mettere insieme i dati, ci sono delle sciatterie, ma perché non viene costituita? Non sarebbe così difficile? Allora fermati, no? Solo un secondo, sentiamo l'ascoltatore Antonio. Io mi ricordo che con te proprio qualche tempo fa facemmo la storia di molte persone che ci testimoniavano le difficoltà, al limite diciamo della malavita organizzata, i rapporti che dovevano tenere per avere un bambino, pagare i funzionari dei paesi dell'est perché sennò altrimenti era impossibile. Quando capiamo che con un iter probabilmente lungo, ma perlomeno semplificato dal fatto che ce l'hai abbastanza vicino a casa, sarebbe possibile comunque avere in adozione un bambino del proprio paese, senza poi che questo sia un'imposizione, ma perlomeno presentarlo come chance. Antonio, sì, buongiorno. Sì. Buongiorno. Allora, semplicemente, molti siti, e spesso è ricorrente la notizia che un bambino in una casa famiglia costa circa 200 euro al giorno allo Stato, quindi parliamo di 6.000 euro al mese. Allora, se una cifra pari a meno della metà di questo importo venisse dato alle famiglie disagiate alle quali i bambini vengono tolti, probabilmente non ci sarebbe bisogno di toglierli. Quindi se hai coraggio e voglia, prova a indagare sul perché a volte vengono tolti intere gruppi di bambini, due o tre figlie delle famiglie disagiate, quanto questi figli allo Stato vengono a costare 10 volte tanto quanto potrebbe costare invece aiutare la famiglia. Antonio, le faccio rispondere subito. Io, per quello che posso sapere io, il disagio molte volte non è soltanto di tipo economico, c'è uno stato di vita in quella famiglia che non permette al ragazzino di vivere serenamente la propria vita, non è solo questione di disagio economico, alcuni disagi non è che si compensano pagando. Liviana Marelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Coordinatrice dell'area infanzia, adolescenza e famiglie del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, CNCA. Alla domanda del nostro ascoltatore, come risponde? Sì, faccio una precisazione, il CNCA non si occupa solo di comunità di accoglienza, ci tengo a dirlo perché appunto io non voglio passare per quella che difende le comunità di accoglienza. Il CNCA si occupa anche di reti di famiglie affidatarie, ha prodotto moltissimo in questo ambito, è membro del tavolo nazionale affido, quindi la comunità di accoglienza è una delle esperienze del CNCA, l'acronimo non ci aiuta ma ci tenevo a dirlo. Mi viene da rispondere in due modi. La prima è che la legge proibisce in qualche modo che i bimbi siano allontanati dalle famiglie che hanno semplicemente, metto tra virgolette semplicemente, una difficoltà di tipo economico, e parlo della legge della 184 e della 149, quindi laddove un bambino è allontanato dalla famiglia solo perché è economicamente in difficoltà, questo andrebbe denunciato. I bimbi che sono allontanati dalle famiglie, peraltro con provvedimento del Tribunale per i minorenni, io ci terrei a dire che nelle comunità non arrivano i bambini perché le comunità li vanno a prendere, arrivano perché il Tribunale per i minorenni, su segnalazione, su un lavoro di verifica, di approfondimento, eccetera, eccetera, ha verificato che quella famiglia d'origine è temporaneamente non in grado di occuparsi del proprio figlio. Cioè, diciamo, le situazioni di degrado sociale, bambini molestati, picchiati, genitori con dipendenze, cioè ce ne sono tanti, sì, motivi. Sì, che hanno difficoltà di carattere relazionale. Cioè, ci sono famiglie in cui i padri massacrano le madri e i bambini assistono, cioè non è che parliamo... Famiglie povere, economicamente povere, dovrebbero essere aiutati dai comuni, e qui con contributi economici, con supporto alla genitorialità, con tutto quello che possiamo mettere in campo. Qual è il problema oggi? Che il sistema di welfare assolutamente carente, continuamente tagliato, eccetera, eccetera, rende a volte impraticabile il sostegno vero alle famiglie d'origine, e si arriva tardi. Liviana Marelli, quanti sono i bambini in Italia ospite delle strutture di accoglienza? È possibile dare un dato? L'unico dato che noi abbiamo, a cui facciamo riferimento, è quello dell'Istituto degli Innocenti, presentato a novembre dell'anno scorso dal Ministero, che ci dice che in Italia i minorenni accolti nelle comunità sono poco meno di 15.000, più o meno lo stesso numero di bambini è in affido familiare, quindi sono circa 29.000 qualcosa al 31 dicembre 2010. Questa ricerca la si trova sul sito degli Innocenti e del Ministero. Valentina Furlanetti, sì, ma piace questo circa, perché anche lei si basa su dati scivolosi. Poi, gli innocenti non avranno sott'occhio tutti i bambini di no, anch'io mi ero rivolta a loro, fanno delle ricerche molto importanti. Scusi, dico circa perché non ho sotto mano in questo momento. No, certo, ma io non contestavo il suo circa. Dicevo che il suo circa... sì, ma non contestavo il circa in quanto lei non fosse preparata, ci mancherebbe. Contestavo il circa perché non esiste un database, come dicevamo dall'inizio. Quindi l'Istituto degli Innocenti fa delle ricerche molto stimate, e ovviamente le uniche che ci sono, quindi ci basiamo su quelle al momento, e altre ricerche del Ministero di Giustizia. Però l'importanza del database viene anche da questo, no? Dal fatto che i dati sono scivolosi, quindi è anche difficile capire dove sono. Alcuni sono in affido, come diceva la dottoressa Marelli, alcuni sono nelle case famiglia. Anch'io volevo aggiungere, Gianluca, che sicuramente il disagio non è solo di tipo economico, e come diceva la dottoressa Marelli, non è per questo che si tolgono i bambini alle famiglie quando ci sono forti situazioni di difficoltà. Tra l'altro le case famiglia anche qui bisogna distinguere, ci saranno sicuramente, ci sono dei fondi che vanno alle case famiglia, ma ci mancherebbe, ci sono anche bambini che hanno dei disagi di tipo fisico, di tipo psichico, per cui questi soldi non si può fare un calcolo che vengono dati mensilmente e in famiglia farebbero le stesse cose, perché hanno bisogno di supporti di vario tipo. E certo, poi c'è casa famiglia e casa famiglia, no? Come tutto. Una mia impressione, noi stiamo parlando di bambini esattamente come se vivessimo negli anni 50, negli anni in quei film neorealisti in cui Alberto Sordi faceva la tratta dei bambini del dopoguerra e li portava in America. Siamo esattamente a quel livello, da quanto mi sembra di sentire. Lavoriamo in un periodo in cui sappiamo tutto di tutto, in cui i nostri dati sono incrociati, i nostri conti in banca sono vagliati dall'ultimo fino all'ultimo centesimo, non sappiamo esattamente quanti bambini abbandonati o affidatari o potenzialmente affidabili esistano in Italia. Ti sembra possibile? In effetti l'incipit della trasmissione che tu hai fatto corrisponde veramente alla realtà. La percezione dell'infanzia che si ha in Italia è molto diversa sulla base di quello che è la realtà. Questo, il non sapere nulla di bambini che sono affidati allo Stato e che potrebbero in alcuni casi essere adottati, e il fatto che sui media, ma anche per strada, nei discorsi che si fanno, l'infanzia è sulla bocca di tutti, la protezione dei bambini, no? Della vita, e c'è ovviamente uno scollamento molto forte fra quello che si dice dell'infanzia e della maternità e quello che è la realtà dell'infanzia e della maternità in Italia. Si fanno più convegni in Italia, ieri c'è stata una fantastica seduta alla Camera in cui si parlava dei problemi dell'odio in internet, però si fanno più convegni in Italia sui pericoli di Facebook e di Twitter per i bambini che per i bambini abbandonati che stanno lì e nessuno nemmeno sa della loro esistenza. Melog, la realtà condivisa. Il numero a cui chiamare per dare un proprio contributo alla domanda di risoluzione, se possibile, ci siamo fatti questa mattina. Ci siamo resi conto improvvisamente che al di là delle grandi dichiarazioni di intenti, al di là delle rappresentazioni strappacuore che abbiamo del nostro comune denominatore nazionale, in Italia dei bambini gliene importi un fico secco a nessuno. Perché? Perché prima cosa non abbiamo un database aggiornato, ma non abbiamo un database per niente, anzi non abbiamo dei dati certi su quanti siano i bambini in Italia in attesa di affido o di adozione. Abbiamo anche molte poche incertezze poi di cosa accada a questi bambini e quale sia il livello di attenzione rispetto a questi bambini. Ma in particolare io ho sotto mano un articolo uscito su Repubblica, mi sembra un anno fa, era un'inchiesta che aveva fatto il collega Paolo Berizzi, che ho al telefono. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Gianluca. Ciao Paolo, con lui ci siamo sentiti, non so se ricordate, quando aveva lanciato l'iniziativa dei Tall Street, andare a fare una sorta di marcia nei luoghi dello spaccio nelle città italiane per vedere, toccare con mano lì dove accade, piuttosto che parlarne sempre nelle aule congressi, parlarne nei luoghi asettici dove mai entrerà assolutamente l'idea della droga. Mi spieghi meglio il senso della tua inchiesta? Il titolo era Bambini in casa famiglia, business da un miliardo all'anno. Tu parli di 20.000 giovani tra neonati, bambini e ragazzi ospitati in strutture perché sono stati allontanati bambini naturali. Tu da dove avevi preso questi dati? Allora, questi erano i dati che avevamo incrociato facendo una sintesi tra quelli pochi, ahimè, certi, diciamo che escono dai database degli enti affidatari e diciamo i numeri offerti dalle strutture di accoglienza. Io credo che il problema sia molto semplice, come dicevi tu prima. Il primo è la nebulosa che avvolge tutta questa filiera dell'affido, dell'accoglienza nelle strutture e del rilascio molto lento, moltissimo lento, dei bambini con l'assegnazione alle famiglie che li richiedono. Guarda che singolare questo, Paolo. Sembra che sia il bene più protetto e più tutelato in Italia, il bambino. Vai a toccare l'idea della famiglia, l'idea di bambini affidati alle coppie gay, i bambini e la pubblicità, i bambini e internet, ripeto, su cose che mi stanno particolarmente a cuore. Ma in realtà esistono una sorta, come detto, di nebulosa. Sono dei veri fantasmi, i bambini, quelli che realmente hanno bisogno concretamente di aiuto. Sono dei fantasmi, vedi, un tema che si presta purtroppo ad una facile retorica, no? Come tutti quei temi che toccano in qualche modo soggetti sensibili. Io credo che qui il punto sia uno, e cioè la ragione sociale di questi luoghi, di queste strutture di accoglienza. Loro, la ragione sociale è quella di accogliere i bambini meno fortunati e poi assegnarli, sulla base chiaramente delle indicazioni degli enti affidatari, alle famiglie che ne fanno richiesta. Non solo questo non succede, ma purtroppo i bambini, anziché restare per un breve tempo all'interno di queste strutture, come dovrebbe essere, come prevede lo statuto di questi luoghi, restano lì e diventano ragazzi, diventano adolescenti, diventano quasi adulti in quei luoghi. Quindi non diventano però la ragione dell'esistenza di questi luoghi. Se non ci fossero i bambini su cui ottenere, diciamo, contribuzioni, dovrebbero chiudere. Ed è questo il punto, infatti, cioè il problema è che spesso i bambini restano lì, diventano ragazzi in quei luoghi proprio per garantire a queste strutture la sopravvivenza, i fondi, i finanziamenti. Ogni bambino rende a questi signori, a queste strutture, una determinata cifra che viene offerta, fornita dallo Stato. È evidente che spesso purtroppo gli interessi delle famiglie non che vorrebbero avere questi bambini, che attendono anni, non coincidono con gli interessi, a volte anche economici, di queste strutture. C'è trasparenza evidentemente... e rendicontazione su quella che è la retta diaria? Tu dici dai 70 ai 120 euro, cioè come spendono i soldi che poi lo Stato... Tu hai fatto anche un conto generale che lo Stato poi elargisce e distribuisce a questo tipo di attività? Ma dovrebbe esserci una rendicontazione e una trasparenza. Il problema è che, come spesso accade in Italia per fenomeni di questo tipo, spesso c'è molta poca trasparenza e c'è più opacità. È difficile seguire l'iter, la storia di un bambino da quando entra lì a quando poi viene affidato alla famiglia. Tutto dovrebbe essere trasparente, tutto dovrebbe essere in chiaro. Purtroppo spesso la chiarezza non trova riscontro, e soprattutto questi ragazzi invecchiano quasi in questi luoghi senza che le famiglie possano beneficiare del loro affetto, del loro amore, e soprattutto offrire loro affetto e amore. Fermati un attimo, Paolo. Paolo, l'ascoltatore. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, ho lavorato 8 anni in una cooperativa, in una circoscrizione romana, dove ci occupavamo di affido. Io sono uno psicologo, ero appena laureato, affido e sostegno alle famiglie. E i servizi sociali, non so per quale motivo, forse per un vecchio retaggio, una preparazione sbagliata, in genere non aiutano le famiglie che hanno minori in difficoltà con nessun tipo di sostegno. Ti dico, neanche una casa popolare gli viene data, ma preferiscono prendere i bambini e toglierli, e so che il costo di questo tipo di operazione è molto alto per lo Stato. Cioè tu mi confermi, mi stai confermando quello che stanno dicendo i nostri ospiti, che in realtà l'industrializzazione del mantenimento è molto più redditizia che la risoluzione del problema sociale. Sì, sì, ma nel caso specifico, il caso nostro, non per qualche motivo, giusto per ignoranza, cioè si preferiva, le politiche sociali sono di questo tipo, cioè punitive, non c'è nessun tipo di riabilitazione familiare di tipo sociale, economico, non esiste. Cioè quando c'è un disagio, il bambino viene immediatamente protetto isolando la famiglia, e non c'è modo di recuperare la famiglia. Lidiana Marelli, coordinatrice CNCA. Vediamo, abbiamo sì, dato... Mi ha sentito cosa avete detto prima, però, perché era caduta la linea e mi avete richiamato adesso. Sì, ma semplicemente ha parlato Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica, che ha fatto sì. Un'inchiesta sui bambini nelle case famiglia. Anche lui è dell'idea che in realtà ci sia l'idea del mantenimento ad vitam, cioè di questi ragazzi nelle strutture. Perché? Perché diventano la ragione per cui esistono le strutture. E come diceva adesso Paolo, l'operatore che ci ha telefonato, in realtà molte volte si preferisce delocalizzare il problema, portarselo nelle strutture adeguate, piuttosto che risolverlo alla radice. Allora, provo a essere sintetica, perché il ragionamento è sicuramente molto vasto. Parto da questa prima informazione, che dicevo anche nell'intervento precedente: i bambini non vengono accolti nelle strutture su scelta delle comunità di accoglienza. Peraltro il termine casa famiglia è ambiguo, perché è un termine che non viene usato dappertutto. Chiamiamole comunità di accoglienza, che possono essere familiari se hanno degli adulti presenti, o educative se hanno degli educatori. I bimbi arrivano. Peraltro l'ultimo dato dell'Istituto degli Innocenti, che fa riferimento al 31 dicembre del 2010, dice che nelle comunità di accoglienza ci sono prevalentemente adolescenti, per fortuna, perché i bimbi piccoli devono andare in famiglia, su questo non c'è dubbio. Quindi i bambini arrivano, i minorenni arrivano nelle comunità su invio del Tribunale per i minorenni e su segnalazioni e approfondimenti da parte dei servizi sociali o altro. È indubbio, e continuiamo a dirlo, perché basta vedere l'ultimo report della CRC presentato il 6 di giugno a Roma, quanto ieri ha detto il Garante Nazionale Infante sulla sua relazione annuale. È indubbio che oggi il sociale è come dire, la deriva delle derive delle derive, non ci sono livelli essenziali, c'è un continuo. Noi aspettiamo un collegamento con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza al telefonino staccato, se lo riattacca ci piacerebbe sentire il suo parere. Sì. Allora è evidente che se noi disinvestiamo sulla famiglia d'origine, sul lavoro di prevenzione, di promozione della comunità locale, eccetera, eccetera, la comunità di accoglienza può essere pensata come l'ultima spiaggia, però appunto. Dico, ripeto, in comunità arrivano perché qualcuno li manda, e li manda a volte perché prima si è disinvestito. Su questo non c'è dubbio. Ma sfermi un attimo, Oliviana Marelli, Marco Ruffini, velocemente, presidente AIBI, qua ritorno al problema. Se i tribunali mandano i bambini alle comunità, poi se una volta interrogati difficilmente hanno la memoria di tutti quelli che sono passati, è ancora più difficile poi vedere l'esatta essenza del problema. Ma qui il problema è che noi siamo schiavi di due miti culturali. Primo è il mito dell'assistenza, cioè il bambino in difficoltà viene messo in assistenza perché si pensa che l'assistenza risolva l'abbandono, in realtà non lo risolve. L'altro mito è il mito della famiglia di origine, per cui si tende, no, all'infinito a tenere questi bambini in attesa che possano... Nella speranza che i genitori cattivi, no? Si redimano. Questi bambini succede che... ma la redenzione, redenzione è, è una nostra costante nazionale. La redenzione deve essere degli adulti, non dei bambini. I bambini sono già redenti. Non hanno... Cioè noi carichiamo questi bambini della colpa dei loro genitori. Poveretta, la madre è tossicodipendente, le vuoi togliere anche il bambino? Poveretta, la madre è alcolista, le vuoi togliere anche il bambino? Quindi noi abbiamo questa mitologia proprio, che hanno resi schiavi questi bambini di noi adulti, no? Ma il problema fondamentale, però lo ripeto, è il grande scandalo, no? Per cui non abbiamo noi una idea di quanti sono questi bambini, è che i tribunali dei minorenni non hanno le banche dati, cioè non sanno dove sono questi bambini, ecco perché non riusciamo a risolvere il problema. Quindi voi dovete andare a fondo, dite al Garante di fare questa inchiesta. Noi abbiamo scritto una lettera al Garante, Marco stiamo risposto, aspettando, no? Da questa mattina vogliamo collegarci con lui. Marco ci ha risposto, mi meraviglio, viene da lui, ci fa anche, se non rispondi alle nuove associazioni a chi devi rispondere, Garante, no? E questa cosa gliela voglio dire e tramite voi... No, aspettiamo un attimo, che può essere che dopo... Fermo un attimo, no? Griffini, dopo l'informazione del traffico speriamo che riattacchi il telefonino, come eravamo d'accordo con l'ufficio stampa, ci piacerebbe averlo ospite di questa trasmissione. Melog, la realtà condivisa. Mi rendo conto che è un problema complesso, un problema che ognuno vorrebbe sviscerare, vorrebbe chiarire, vorrebbe rettificare riguardo quello che è il suo campo di specifica competenza, ma la notizia che diamo questa mattina è che in Italia non sappiamo nemmeno esattamente quanti sono i bambini in difficoltà. Tutto nasce da una dichiarazione, da una relazione che aveva fatto il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora, alla Camera e al Governo, dicendo che in Italia ci sono 723.000 minori in povertà assoluta e bisognosi comunque di attenzione. Lo stiamo cercando da questa mattina, eravamo d'accordo con il suo portavoce che sarebbe intervenuto in trasmissione, ancora non è possibile parlare con lui. Spero sarà possibile nei minuti che rimangono fino alla fine, perché le domande da fare sono tante. Gaetano, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho fatto domanda di adozione al Tribunale di Bari nel 2010. La prima parola del giudice è che in Italia bambini da adottare non ce ne sono. Ci hanno consigliato di rivolgersi all'estero. Sono 8 mesi che abbiamo 2 bambini della Federazione Russa, 2 bambini stupendi, per la cifra di 30.000 euro ci è costato questa adozione. Se stavano in Italia noi preferivamo rimanere in Italia. È chiaro, fa parte di uno dei tanti problemi che stiamo sfiorando questa mattina. Sono tanti, ma sono legati al fatto che esiste un numero impressionante di ragazzi, di minori invisibili, di cui non si sa nemmeno l'esatto numero. Marco Griffini, presidente dell'AIBI, Associazione Amici dei Bambini, qual era la domanda esatta che voleva fare all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza? La domanda che abbiamo riassunto nella nostra lettera è come garante dell'infanzia, e quindi che prenda, che convochi il Dipartimento di Giustizia Minorile e veramente cerchi di sviscerare se questa nostra supposizione per cui la maggior parte dei tribunali dei minorenni italiani non possiede una banca dati dei minori accolti nelle strutture di accoglienza in affido è vera o non è vera. Corrisponde perché a verità. Altrimenti io non mi spiegherei perché oggi che siamo a giugno, quindi a 6 mesi dall'attuazione della banca dati, questa banca dati non è ancora attuata, cioè l'attuazione sulla carta non è ancora attuata. È chiara la domanda, è chiaro. Marco De Amicis, buongiorno. Buongiorno Marco, a lei e ai suoi radioascoltatori. Marco De Amicis è il portavoce dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che probabilmente non è possibile che intervenga la trasmissione, però facendone in questo momento il portavoce è come se parlasse il garante in persona, il dottor Spadafora. Allora, prima a caldo, se possiede dare una risposta al rappresentante dell'associazione Amici dei Bambini. Risulta anche a voi che non esista questo database, che non esista il database, è un dato di fatto e siamo 6 mesi in ritardo rispetto alla la sentenza del TAR, ma che i tribunali dei minori non abbiano l'esatto conto dei ragazzi che passano per loro? Allora sì, confermo ahimè quanto da lei appena detto e dico anche che ieri quando abbiamo presentato la relazione annuale al Parlamento era presente il ministro Cancellieri che oggi è ministro della giustizia dopo essere stato ministro degli interni. È di sua competenza. È di sua competenza. Tra l'altro una delle proposte lanciate dal garante è stata proprio rivolta al ministro, quella di una immediata riforma della giustizia minorile, che chiaramente comprende anche questo. Io penso ai tantissimi casi, ahimè, di figli contesi che ci sono stati segnalati in questo primo anno scarso di attività, ma anche riguardo alle adozioni. E poi sentivo parlare di minori scomparsi. Noi abbiamo un firmato a dicembre scorso, peraltro quando la Cancellieri era ministro degli interni in quel momento e c'era ancora il prefetto Manganelli, un protocollo con la Polizia di Stato, e il problema dei minori scomparsi è effettivamente un problema reale. Riguarda presumibilmente a volte, spesso, soprattutto i minori stranieri, anche perché poi adesso mi rendo conto che quando comincio a parlare di quelli che sono purtroppo i problemi legati ai cittadini di minorità, ahimè non si finisce mai, però ad esempio molte volte arrivano dei minori stranieri nel nostro paese che non si riesce a sapere, a capire se sono minori oppure no. Per tornare alla sua domanda iniziale, sì, è vero, sono passati troppi mesi e allo stato attuale ancora non siamo in grado di avere questo registro. Questo dato di 723.000 minori in povertà assoluta è quello più eclatante, che più ci fa riflettere sull'entità del problema. Da quali dati è stato estratto o composto? Sì, mi fa molto piacere che lei lo sottolinei, per il semplice fatto, come dicevo prima, che sicuramente ci sono tante cose che non vanno e che purtroppo non funzionano per i nostri ragazzi. Però, tanto per farle appunto un esempio, i figli contesi, quelli che spesso ci trovano e ci troviamo all'ora delle cronache, sono più o meno tra i 20 e i 30.000. Invece, come lei ha appena detto, ci sono più di 700. Ci sono l'anello più debole del disastroso diritto matrimoniale nel nostro paese, delle lungaggini. Sì, sì. Esatto, parte diciamo da una responsabilità, si può dire, dei genitori, ma poi spesso è un sistema che funziona male. Sì. E in questo il garante ha tutta, diciamo così, l'impegno a fare da facilitatore più che altro nel mettere al tavolo le varie persone che poi devono occuparsi di questa riforma. Ma tornando a quello che diceva lei prima, è veramente la cosa più grave, soprattutto è grave perché la gente non la percepisce, è la povertà che colpisce i ragazzi oggi. Senta, lei può impegnarsi di avere un giorno per tutta la durata della trasmissione il dottor Spadafora? Ci piacerebbe riprendere l'argomento. Questo assolutamente, io mi scuso anzi oggi, però come dicevo anche alla sua redazione sono fuori da palazzo. Allora ci saremo sia io che Valentina Forlanetto con il dottor Spadafora, quando voi ci date la data, noi siamo qua. Grazie, alla prossima.